Non è un frammento all'interno di tantissime cose che accadono sul palco, che là, l'habitat è di Flavia Mastrella, sul palco ci siamo io e Ivan Bellavista, è uno spettacolo del 2012, quanto mai attuale, perché noi poi essendo produttori dei nostri spettacoli non li mandiamo mai, come si dice, in soffitta, sono sempre presenti e li rappresentiamo dovunque, in Italia e all'estero, non sapremmo mai accettare uno spettacolo del passato che non può essere più rappresentato. Quindi noi creiamo un teatro shakespeariano, e ora che la critica dica che quello che facciamo è shakespeariano perché resiste al tempo, non si tratta più di parlare dei contenuti degli spettacoli, ma della nostra natura storica, ecco, che scavalcherà le nostre carcasse. Ecco, spero di essere stato abbastanza puntuale nella spiegazione. Spettacolo, allora, se vogliamo proprio semplificare la dialettica, è uno spettacolo involontariamente ipercomico, e quindi la gente ride all'inizio e alla fine, poi uscendo non sa perché ha riso, come giustamente deve accadere. Come accade negli spettacoli, avete lì un altro emblema di questa completa alienazione al compromesso, che è Alessandro Bergonzoni. Cioè, almeno Bologna è molto allenata alla metafisica, è molto allenata all'assurdità, e noi è una città adottiva per noi Bologna, e da quando ci esibivamo al Cassero nell'89, quindi la conosciamo bene e ci ama molto, e noi amiamo questa città che poi risponde sempre con grande calore. Però essendoci anche Alessandro lì, giochiamo in casa, ecco, diciamo, giochiamo in casa, perché se un pubblico è abituato all'assurdità, e questo è uno spettacolo completamente assurdo, dove tu non puoi uscire fuori a raccontarlo, perché è soltanto uno scambio di energia e di emozione, che non è poco. Allora, uno spettacolo come il nostro bisogna vederlo per non saperlo raccontare. Se una volta che lo vedi non riesci a raccontarlo, ma se lo fai non puoi certo raccontarlo, perché chi lo fa lo fa, chi lo vede dovrebbe cercare di raccontarlo. Cioè, vi sono delle fasce luminose dove noi entriamo con il corpo e diciamo delle cose, diciamo, la dinamica è quella di qualsiasi altro spettacolo, attori sul palco che fanno delle cose, solo che noi le facciamo meglio, o le facciamo in modo diverso, ecco. Come le fa meglio Alessandro, come le fa meglio Franco Maresco, esistono delle persone che lavorano meglio, noi siamo tra queste persone. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata. Grazie.